Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno e buona domenica a tutti. L'Italia, come voi sapete, si regge sulla manifattura e in particolar modo sull'industria meccanica, anche se c'è una propaganda di cuochi, di agricoltori e di turismo, propaganda che sta gettando sull'astrico poveri ragazzi che vedono robe tipo MasterChef e finiranno a fare i camerieri mal pagati negli alberghi a guadagnare 800 euro, vedesi boom di iscrizione all'alberghiero. L'Italia, sì, regge sulla manifattura e in particolare sull'industria meccanica. Ci sono aziende del cosiddetto quarto capitalismo che continuano a crescere, che esportano medie aziende molto ricche, che fanno prodotti che non sono di nicchia, sono prodotti diffusi che però magari non sono così conosciuti. Ma quando una cosa non è conosciuta è colpa di chi non la conosce. Un'azienda di queste, un'azienda eccellente, è la Bonfiglioli, un'azienda che sta a Lippo di Calderara di Reno, a Bologna, e che fa motoriduttori. Che cos'è un motoriduttore? Ce lo spiega fra poco la sua titolare, amministratore delegato, Sonia Bonfiglioli. Però la Bonfiglioli, pensate un po', fa 785 milioni di euro di fatturato, dà da mangiare a 3.650 dipendenti più l'indotto, 60% è esportazione, e adesso sta facendo un grossissimo investimento a Rovereto, dove c'è un polo della meccatronica che è un gioiello che tutta l'Europa ci invidia, il Bonfiglioli Mechatronic Research, e lì ci saranno 100 assunzioni entro la fine del 2018. Questa azienda è un pioniere della meccatronica ed è giusto che se ne parli perché l'Italia vive di questo. Intanto salutiamo Sonia Bonfiglioli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dicevamo 785 milioni facendo i motoriduttori, ma ci crede che io, nonostante mi occupi di queste cose, un motoriduttore ancora non ho capito cos'è? Allora, un motoriduttore è un insieme di ingranaggi dentro una cassa di ferro, è il concetto di fatto del cambio dell'automobile, solo che nel cambio le velocità degli accoppiamenti degli ingranaggi uno li cambia innescando la marcia, nel riduttore il rapporto, quindi la velocità, diventa fissa. Prendi la velocità dal motore, che è fissa quando acquisti un motore a alcune velocità predefinite, la modifichi mettendo un riduttore, ottenendo la velocità che ti serve per l'applicazione. Ecco, voi siete attivi in tre aree di business. Un'area che si chiama wind e che si occupa delle turbine, un'area che si chiama mobile che si occupa delle macchine movimento terra, e un'area tradizionale che si chiama industrial, giusto? Sì, diciamo, abbiamo questo, anche facendo riferimento a Rovereto, questa quarta area di business che è quella dell'automazione industriale. Ah, ecco, di Rovereto ne parliamo nella seconda parte della trasmissione perché abbiamo più tempo e lì voglio lanciare una scheda. Comunque, voi siete un'azienda nata nel 56 da suo papà, che era Clementino Bonfiglioli, e che, se non vado errato, era un semplice operaio o poco più, giusto? No, mio padre era un perito industriale, quindi sì, un progettista disegnatore, quindi dopo la guerra chiaramente erano già un profilo di competenza buono. Ha fatto un po' il progettista disegnatore e poi si è messo in proprio fondando la Bonfiglioli. E all'inizio cosa faceva la Bonfiglioli? Ha sempre fatto dei riduttori, è partita facendo dei riduttori, quelli che noi conosciamo come vite senza fine, un nome un po' tecnico, che fanno parte della storia anche dell'Italia, di un'Italia che allora ha cominciato a costruire tutta una serie di prodotti che fino a quel momento non c'erano. Bene, ne parliamo nella seconda parte della trasmissione, intanto ci vuole questa pausa. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Sonia Bonfiglioli, che è l'amministratore delegato della Bonfiglioli, un colosso che fa riduttori, cioè accessori meccanici ad alto valore aggiunto. Prima abbiamo spiegato di che cosa si tratta, anzi scusate, strumenti meccanici ad alto valore aggiunto. E oggi continuiamo a raccontare la storia di questa azienda, che è nata dalla volontà di un singolo che era suo papà Clementino Bonfiglioli, e oggi fa la bellezza di 785 milioni di fatturato. Ma com'è che avete fatto a crescere così tanto, signore? siamo stati migliori dei nostri concorrenti. Ecco. Scherzo, abbiamo continuato a investire molto in innovazione, abbiamo investito in questi ultimi anni molto anche nella riorganizzazione, soprattutto della Lean Production, un po' in tutti gli stabilimenti, e anche investito in stabilimenti all'estero per essere più vicini ai mercati finali. Ecco, voi un tempo eravate un'azienda meccanica, adesso vi posizionate verso la meccatronica. Il tema della meccatronica è molto attuale, tra l'altro segnalo che in Asso Lombarda c'era un gruppo meccanici che adesso si presenta come meccatronici, perché la meccanica tende a diventare o è già una cosa sola con l'elettronica, giusto? Esatto. Ecco, e questo Bonfiglioli Mechatronic Research che avete fatto a Rovereto, di che cosa si occupa e a cosa serve? Allora, il Mechatronic Research di Rovereto era nato come centro ricerca della meccatronica, poi è diventato già da un paio d'anni uno stabilimento di produzione dedicato all'automazione industriale, quindi viene fatta sia la ricerca di quelli che sono i prodotti meccatronici per macchine automatiche, packaging, quindi settori di precisione, quindi entriamo nella meccanica più di precisione con prodotti speciali che noi chiamiamo brushless, seduttore a gioco ridotto, di nuovo dei prodotti che forniscono una precisione ancora più alta per applicazioni più sofisticate. Ecco, sul polo di Rovereto, che è un centro di eccellenza mondiale, ascoltate questa scheda. La manifattura è la spina dorsale dell'economia italiana, visto che genera direttamente il 16% del PIL e indirettamente il 60%. Ma la spina dorsale della manifattura è la meccanica, che vale tra il 50 e il 60% della nostra industria. La meccanica si sta evolvendo in meccatronica, un unico settore industriale nel quale convergono meccanica, informatica, elettronica, idraulica, pneumatica e sensoristica. In tema di meccatronica, il Polo di Rovereto è una delle iniziative all'avanguardia in Italia e in Europa. Si tratta di uno spazio comune e dinamico dove imprese, studenti e ricercatori studiano, progettano, producono e fanno ricerca insieme. A Rovereto ci sono start-up, istituti scolastici superiori, dipartimenti universitari, centri di ricerca, acceleratori industriali, supportati dai servizi finanziari offerti da Trentino Sviluppo. Ma anche, anzi soprattutto, centri di ricerca e sviluppo di grandi aziende. Dall'aprile del 2015 è operativo il Dana Mechatronics Technology Center, che si occupa in particolare di sistemi avanzati di trazione per veicoli fuori strada. E Dana Incorporated è un colosso americano da 6 miliardi di dollari di fatturato. E sono già attivi i laboratori di Ducati Energia, Bonfiglioli, Carl Zeiss, nonché quelli di una ventina di aziende, talora start-up, un po' meno note. Molte altre dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Ma facciamo un po' di storia. Il primo insediamento in zona risale al 1925 ed era il cotonificio che Pirelli ha impiegato fino al 1982 per produrre filati di cotone destinati a cavi elettrici e pneumatici. L'area è stata recuperata nel 1983 e degli edifici originari si è fatto un BIC, Business Innovation Center. Insomma, dai capannoni agli incubatori di imprese. Nel 2011, poi, ha preso avvio il progetto di trasformazione per la focalizzazione sulla meccatronica. Nel 2015, la provincia autonoma di Trento ha deciso di investire complessivamente circa 85 milioni di euro per un piano che coinvolge non solo il braccio operativo Trentino Sviluppo, ma anche le locali università e Confindustrie, e poi la Fondazione Bruno Kessler, l'Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi, che porterà le proprie aule e tutti i ragazzi all'interno del polo, e il Centro di Formazione Professionale Veronesi di Rovereto, senza dimenticare l'acceleratore privato Industrio e il Comune di Rovereto. Dopo la scheda sul polo di Rovereto, siamo di nuovo in linea con Sonia Bonfiglioli della Bonfiglioli. Senta, 785 milioni di fatturato, il miliardo quando lo vediamo? Speriamo presto. Ma voi vi siete fatti un business plan con... Noi abbiamo business plan triennali che vengono fatti ogni due anni, abbiamo proprio il business plan nuovo, una nozione non noce refresh, e nell'ambito del quale si fanno tutti i piani, i progetti, le strategie per puntare. Ecco, quindi l'obiettivo del miliardo ve lo siete dati quando? Nel 2020 o prima? 2020 ci potremo arrivare. Ma e come mai non considerate la borsa? Ma perché in questo momento abbiamo comunque un progetto di riorganizzazione interna che già di per sé è un progetto molto importante e che dovrebbe portarci ad avere a partire dal 2018 a Bologna Evolution, che è il nuovo stabilimento Industry 4.0. Ah, io l'avevo sentito chiamare progetto Evo e stavo per chiederglielo. Sì, Evo. Ah. Evo è l'acronimo di Evolution. Quindi voi investite molto. Se non investi sei fuori dal mercato, quindi l'importante è avere un'azienda redditiva che ha la capacità di sostenere gli investimenti. E siete in grado di autofinanziarvi? Perché vedo che non ci sono private equity, se non erro. No, non abbiamo private equity, abbiamo dei rapporti storici con aziende di credito storiche del territorio italiano su cui abbiamo, diciamo, un buon rapporto e che ci supportano anche in questi nuovi futuri investimenti. Senta, ma qual è la maggiore difficoltà o criticità con la quale lei si trova a combattere nella sua attività imprenditoriale? Gli uomini sono la più grande chiave di successo o di fallimento di qualunque progetto. In questo momento, con la partenza dell'Industry 4.0, sarà ancora di più un tema critico, perché da una parte sarà difficile trovare le risorse che servono skill diversi, e d'altra parte si rischia di aprirsi un problema sociale all'interno delle stesse aziende, perché può essere che gli skill che hai non siano più sufficienti. Ecco, infatti noi su Fabbrica 2.4, per quanto riguarda la crescita dell'automazione, abbiamo lanciato un dibattito e invitiamo i nostri ascoltatori a farci sapere che cosa ne pensano scrivendoci su fabbrica@radio24.it. Perché ha detto gli uomini e non le persone, non gli uomini e le donne? Ma perché io uso uomini in senso umano, nel senso quindi uomini e donne oppure persone, assolutamente uguale. Spero che ci siano più donne che fanno scelte tecniche, io ho fatto ingegneria e quindi credo che si possa fare. Ma infatti io ho sempre pensato che uno dei motivi per cui le donne non fanno carriera come sarebbe giusto per un equilibrio dei sessi è che si orientano a scegliere di più le facoltà che sono meno remunerative. Sono d'accordo con lei, io difatti, io ho fatto ingegneria, non ho mai smontato il motorino da ragazzina e l'ho fatta perché volevo entrare in azienda. Ancora oggi credo che ci sono enormi possibilità per chi fa studi tecnici, ingegneria in primis o istituti tecnici, uomini e donne che siano. Il problema è che le donne poi finiscono con l'iscriversi a matematica, che genera professoresse malpagate di matematica. Esatto, e alla fine lo skill mentale è lo stesso. E quindi io dico fate ingegneria, non esatto. Guardate MasterChef, non guardate queste idiozie, perché poi sono idiozie, perché siccome qualunque persona, anche le più limitate, può cucinare un uovo, in questo modo tutti si identificano con questa propaganda becera e veramente riprovevole. Torniamo a noi, lei ci ha dato una notizia importante, che c'è un gap di competenze sull'Industry 4.0 e sull'ingegneria, e quindi ci sono dei possibili posti di lavoro che non verranno ricoperti e quindi ci sono possibilità di impiego per le persone. Assolutamente sì, se ci pensa oggi con questa forte automazione che prenderà e non è un fenomeno frenabile, le competenze sulla meccatronica, su tutto quello che è un IT applicato sia ai prodotti che ai processi, perché l'Industry 4.0 impatta prodotti, processi e servizi. Ma quindi secondo lei l'arrivo dei robot non distruggerà posti di lavoro? Ne creerà dei diversi, è come quando sono arrivate le automobili e hanno sostituito le carrozze. Probabilmente non c'era meno bisogno di falegnami che facevano le carrozze, però c'era più bisogno di meccanici che costruissero le macchine. Il problema è che alcuni lavoratori si potranno riconvertire, altri no, e questo avvento dell'automazione pervasiva può generare dei perdenti assoluti. Ma io su questo non sono d'accordo con lei, io credo che finché uno non è orizzontale, dicasi morto, ha il dovere oggi di rimettersi in discussione sulla sua formazione. Se i medici, se i commercialisti hanno degli obblighi formativi continui, non vedo perché chi lavora nell'industria non li deve avere. Deve nascere anche nell'industria il concetto che uno deve continuamente aggiornarsi e studiare. Però, vede, questo per chi ne ha la capacità, io penso ad esempio al caso dei porti. I porti verranno tutti automatizzati, ci saranno i sensori sui container, i sensori sulle gru, e sarà tutto un processo automatico per cui quando arriva il container già si sa dove deve essere messo. Quelli che guidano i camioncini con le benne o le gru che mandano il container dal punto A al punto B andranno a casa. Se gente che ha più di 50 anni, non so se proprio questi si possono, come dire, riconvertire. Magari sì. Io guardo, io credo che alla fine non è che abbiamo bisogno di tutti ingegneri, in tutti i processi ci sono a volte anche delle persone, dei tecnici che devono semplicemente essere degli utilizzatori di strumenti nuovi, quindi anche oggi vestire questi nuovi occhiali, questi strumenti, saper lavorare, riconoscere il segnale che ti viene da un sensore non ti richiede necessariamente una laurea, ti richiede di poter avere familiarità però con strumenti nuovi all'avanguardia. E infatti c'è un nuovo linguaggio uomo-macchina e questo sarà uno dei temi delle nostre puntate, dove speriamo di avere ancora ospite Sonia Bonfiglioli, però adesso il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere. Grazie signora. Grazie a lei.